L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha dedicato un numero della sua rivista quadrimestrale alla spinosa questione della sofferenza degli animali e in particolare alla questione della shechitah, ovvero della macellazione rituale kasher. Domenica scorsa, il 7 aprile 2013, come preannunciato, la redazione di Restiamo Animali è andata a seguire i lavori di un convegno dallo stesso titolo tenutosi in una sala all'interno della Sinagoga di Firenze. L'intervento che dal nostro punto di vista è parso più avanzato è stato quello di Tobia Zevi, un brillante ricercatore, giornalista e conduttore televisivo. Nel corso degli ultimi anni varie volte è c'è stata la polemica sulla macellazione rituale ebraica ed islamica. In particolare in vari contesti locali e anche internazionali si è posta l'attenzione sul fatto che forse la macellazione ebraica e musulmana, cioè per capirci lo sgozzamento dell'animale, era più cruenta e dunque andava vietata rispetto alla macellazione normale. Questa cosa evidentemente pone un problema notevole, perché da una parte c'è un diritto, quello dei musulmani e degli ebrei, alla loro libertà religiosa e alla tutela delle loro tradizioni, dall'altro esiste un diritto, quello dell'animale, a soffrire il meno possibile. Questo al di là del fatto che personalmente sono vegetariano, ma diciamo, anche se ammettiamo la possibilità di mangiare carne, evidentemente abbiamo il dovere di far soffrire il meno possibile l'animale. Ora, questo tema a me sembra molto interessante dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista politico, proprio perché ci pone di fronte a un dilemma, quello di due diritti che sono parimenti degni. Da questo punto di vista il dibattito è iniziato a tutti i livelli e ho pensato che anche in ambito ebraico fosse utile ragionare senza arroccamenti, senza chiusure identitarie, dal momento che l'origine di questa tradizione, cioè la macellazione rituale ebraica, è in realtà, se vogliamo, di natura animalista, perché la preoccupazione che ha portato a sviluppare questo precetto è quello di far soffrire l'animale il meno possibile. Parliamo di un precetto millenario e dunque è chiaro che nel corso del tempo le conoscenze e le tradizioni possono cambiare. Allora noi organizzammo alla fine del 2011 un convegno su questo tema e naturalmente sono emerse posizioni diverse, perché la prima questione riguarda la possibilità o meno di stordire l'animale prima di ucciderlo, questione che dal punto di vista ebraico è problematica, ma è problematica anche dal punto di vista veterinario, perché non è chiaro quanto poi effettivamente lo stordimento sia meno cruento rispetto alle altre pratiche. E però poi il tema inevitabilmente si allarga alla questione dell'allevamento intensivo, perché in realtà, sia se parliamo di carne, sia se parliamo di pesce, quello che è più sconvolgente è che, ok, è giusto parlare della questione della macellazione, vale a dire della fine della vita dell'animale, ma naturalmente qui parliamo di una differenza di pochi secondi, se appunto un animale è stordito o non è stordito. Quello che invece di cui nessuno parla, e devo dire da questo punto di vista, lo scrittore americano Jonathan Safran Foer ha avuto il merito di portare all'attenzione del grande pubblico questo tema, quello di cui nessuno parla, dicevo, è il fatto che il mondo si è trasformato in un enorme macello a cielo aperto. In questo momento nel mondo esistono circa 3 miliardi e 300 milioni di animali allevati, in allevamenti industriali, pronti per essere ammazzati, e se pensiamo alla pesca, non dobbiamo certo pensare appunto alla pesca con la canna, ma a terrificanti forme industriali con reti che arrivano fino a 120 km di lunghezza. Allora, in realtà il tema che un po' di cui si è discusso domenica a Firenze, ma più in generale secondo me il tema che va aperto nella società e anche nella piccola realtà della comunità ebraica, è fino a che punto noi possiamo consentire ancora che questo modello di economia industriale applicata agli animali, all'allevamento degli animali, vada avanti ignorando non solo l'aspetto etico del problema, cioè il fatto che appunto ci disinteressiamo della sofferenza degli animali e del fatto che in qualche modo dietro ai nostri occhi, nelle città, esistono fiumi di sangue che scorrono, ma anche del fatto che questo tipo di allevamento ha enormi costi in termini ambientali, in termini sanitari, in termini economici, perché evidentemente tutto ciò che è intorno agli allevamenti subisce un enorme deprezzamento dal punto di vista economico. Tutto questo per dire che secondo me da questo punto di vista le religioni, io naturalmente sono più sensibile alla religione ebraica, hanno una grande responsabilità, cioè quella di discutere di tanti aspetti etici appunto, ma anche di porre all'attenzione una questione secondo me enorme, politicamente rilevantissima, e che viene, tende a essere un po' dimenticata in questo nostro mondo. Tobia Zevi, Restiamo Animali? Restiamo Animali. Thank you. segnaliamo un appuntamento per il fine settimana. Progetto Vivere Vegan organizza un incontro alla biblioteca di Scandicci sabato 13 aprile alle ore 10, ricomincio da vegan. Roberto Politi terrà una relazione sul tema perché amiamo i cani, mangiamo i maiali, indossiamo le mucche, sfatiamo i luoghi comuni e conosciamo le ragioni del vivere vegan. Ah!